mentre spidocchio i pensieri mi arresto ad un preistorico ovetto grigio trasparente a cui buon sangue non mente, tu ed io non se ne fa di niente. Che se il tuo sangue non è acqua ma sperma, è inutile piangere sul sangue che verso. Se il sangue del tuo sangue sboccerà da lacrime vero o falso, è inutile piangere sul mio sangue che è acqua, ma è l'anima dimessa delle cose, l'avvertimento della loro dolce presenza, la dolce presenza delle cose dismesse, da loro una luce tutta particolare. Il respiro si fa grosso e il tempo poco. Fra creature nude di legno si spegne il focolare.